Letture di Radio 24. Dall'Iraq al Pakistan, dall'Indonesia all'Africa subsahariana, negli ultimi giorni si sta verificando un'escalation di attacchi contro i cristiani e contro le loro abitazioni, ma gli occidentali fanno finta di non vedere. Dopo l'attacco di gruppi riconducibili ad Al-Qaeda contro una chiesa di Baghdad che provocò 50 morti e un centinaio di feriti il 31 ottobre scorso, una nuova ondata di attentati ha preso di mira questa volta le case abitate da cristiani. Il bilancio provvisorio, probabilmente destinato a salire, è di almeno 3 morti e decine di feriti. In Iraq è caccia aperta ai cristiani e, come dice Monsignor Matoka, arcivescovo siro-cattolico di Baghdad, il governo non fa nulla per fermare gli attentati. È facile per gli occidentali liquidare la questione come una delle tante tragiche conseguenze della guerra in Iraq. C'è del vero, ma è anche una spiegazione insufficiente. Com'è insufficiente rilevare che ciò che sta accadendo è anche la conseguenza della forse prematura scelta americana di dichiarare chiusa la guerra in Iraq e di ritirare il grosso delle truppe. Un ritiro che ha lasciato l'Iraq in balia dei piani egemonici iraniani e sta vanificando il lavoro svolto a suo tempo dal generale David Petraeus. La guerriglia sunnita è ora in forte ripresa, così come l'attivismo di Al-Qaeda. I cristiani, inermi e quindi facili bersagli, sono vittime in uno scontro di potere fra gruppi islamici. Ciò che così non si spiega, però, è perché i cristiani siano continuamente oggetto di attentati in una fascia che va dall'Indonesia all'India, dal Pakistan al vicino Oriente e che si spinge fino ai territori islamici dell'Africa subsahariana. Le cifre sulla persecuzione dei cristiani nel mondo sono impressionanti. Ogni singolo caso ha certamente anche motivazioni locali e anche un portato di condizioni locali. Ciò è vero per definizione. Ma cosa lega la persecuzione dei cristiani nel mondo extra-occidentale? Qual è il denominatore comune? Normalmente chi nega l'esistenza di qualsiasi cosa possa anche solo ricordare vagamente l'espressione scontro di civiltà, non ha risposte da dare. Il denominatore comune infatti c'è. Consiste nel fatto che le comunità cristiane, anche se composte da pakistani, iraniani, nigeriani o anche se, come nel caso delle comunità del Medio Oriente, lì già presenti molti secoli prima che arrivasse l'Islam, vengono associate dai loro nemici al mondo occidentale, ne sono considerate quinte colonne. Uccidere cristiani anche là dove essi hanno solo la religione in comune con gli occidentali ha un grande valore simbolico. Elimina una presenza impura, la spazza via dai territori che agli occhi di chi uccide e dei tanti che applaudono alle uccisioni appartengono di diritto ai praticanti di un'altra religione e contemporaneamente sferra un altro colpo agli odiati occidentali. Gli occidentali però fanno finta di niente, fingono di non vedere e non capire. La persecuzione dei cristiani non è un tema che sia mai davvero entrato nelle agende dei governi occidentali di Stati Uniti ed Europa. Sembra non riguardarli. Con tutto ciò che succede nel mondo paiono pensare i governi e opinioni pubbliche, perché dovremmo preoccuparci anche delle disgrazie dei cristiani non occidentali? Invece dovremmo preoccuparcene. Il nostro sostanziale disinteresse serve a un bel po' di fanatici in giro per il mondo, anche per prenderci le misure, per giudicarci. Ciò che vedono può indurli a pensare che siamo deboli e decadenti e che non c'è pertanto alcun motivo di fermare la mattanza. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Cristiani Invisibili, dal Corriere della Sera dell'11 novembre. Letture di Radio 24. È stato approvato pochi giorni fa il nuovo pacchetto sicurezza che prevede un giro di vite contro la prostituzione. Sarà sufficiente per arginare un fenomeno che coinvolge circa 70.000 prostitute, per un giro d'affari presunto da 90 milioni di euro al mese? Una giornalista della Stampa cerca di tastare il terreno mescolandosi tra quelle che ogni notte popolano la Via Salaria, a Roma, ma viene guardata a vista dai loro protettori. È appena un fruscio alle mie spalle. Un uomo mi sfiora e scende in fretta giù per le scale del cavalcavia. Capelli cortissimi e biondi, jeans scambiati, maglietta a righe, giubbotto di pelle, nazionalità romena. Professione, protettore di prostitute. Non gli piace che io stia su questo passaggio della Salaria, lercio come un urinatoio, pieno di sacchi di spazzatura aperti e rovesciati come nel pieno dell'emergenza napoletana. Fingo di telefonare mentre scatto fotografie, faccio finta di nulla, ma mi fa capire di avermi notata e di tenermi sotto controllo. Le sue donne sono ferme in strada. Passa accanto a loro, bisbiglia qualcosa senza smettere di camminare. Un istante dopo è già scomparso. Le tre donne mi osservano dal basso, indecise se considerarmi una ficcanaso, una poliziotta, una guardona o non si sa bene che altro. Ma di poliziotti da queste parti se ne vedono talmente pochi che immaginare che qualcuno ne abbia mandato di donne in borghese sembra fantascienza pure per loro. Le auto passano veloci lungo la Salaria in questo sabato pomeriggio di inizio novembre dall'aria mite. Sono cariche di famiglie dirette all'IKEA o nei cinemoni multisala del centro commerciale vicino. Percorrono senza più stupirsi quest'arteria che nessuna legge nazionale né ordinanza comunale riuscirà a liberare dai capannelli di donne in vendita. Lo slargo davanti alla palazzina degli studi Rai è uno dei posti migliori, feudo della tratta dell'Est Europa. Le donne di colore qui è difficile che riescano a mettere piede. È uno dei pochi punti dell'intera strada dove si ha tutto il tempo e lo spazio per adocchiare una prostituta persino dall'altro lato della strada, invertire la marcia e tornare indietro a rimorchiarla. Proprio come sta facendo un'auto mentre le tre prostitute mi osservano dal basso. Appena scorgono il cliente, mi lasciano perdere e si mettono in mostra. L'uomo abbassa il finestrino, non ha il minimo dubbio su quale vuole delle tre. Due di loro sono vestite come prevedeva l'ordinanza di 2 anni fa del sindaco Alemanno. Pantaloni e giubbotto, 0 centimetri di pelle messa in mostra. La terza invece è uno schianto. Una tuta elastica nera aderente e luccicante, maglietta altrettanto attillata e molto ristretta. Braccia e ombelico sono ben in evidenza, il seno ha il dovuto risalto. L'uomo parla con lei, le altre nemmeno le guarda. La contrattazione è una questione di pochi secondi, la donna sale sull'auto e vanno via. Le due compagne restano un po' deluse, ma il pomeriggio è lungo e stasera è anche sabato, i clienti non mancheranno. È allora che mi decido ad avvicinarle. Invento una storia a strappalacrime, spiego di aver bisogno di soldi e di essere lì per capire come fare. Riesco ad impietosirle e a convincerle a parlarmi. Sono romene, entrambe minorenni. Una ha un figlio in Romania e una sorella a cui mandare soldi. L'altra solo l'intera famiglia da aiutare tra padre, madre, nonni e forse anche qualche zio. Quando spiego di avere paura perché il governo sta preparando alcune misure per colpire la prostituzione in strada e parlo del foglio di via e poi delle multe, sorridono. Andiamo, torniamo, facciamo quello che vogliamo e poi abbiamo gli uomini. I protettori, già. È il pauroso record italiano. In Europa, nessun altro paese ha un numero così alto di prostitute schiave dei loro sfruttatori. 115 ogni 100.000 abitanti maschi con più di 15 anni. In Olanda sono 76, in Spagna 54 e in tutti gli altri paesi molti meno. Si vedono infatti gli uomini che da lontano tengono sotto controllo i capannelli di donne. Arrivano immediatamente quando una volante o un altro pericolo è in vista e mettono al sicuro la loro merce. È il loro lavoro e ci guadagnano il 90% dei soldi guadagnati dalle protette. Sorridono le due donne, una di loro smania, è ferma da troppo tempo. Si toglie il giubbotto, mostra un bel po' di quello che l'ordinanza di Alemanno ordinava di tenere nascosto. Il cliente arriva, puntuale, pochi minuti dopo e anche la seconda è sistemata. L'ultima ha capito il trucco e trova in fretta anche lei qualcuno disposto a rimorchiarla. È trascorsa mezz'ora. Riappare dal nulla la prima delle tre. La giostra continua. Avete ascoltato la lettura del reportage di Flavia Amabile nel bordello di Via Salaria Il decreto non fa paura, dalla stampa dell'8 novembre.